CRM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. E mentre questa mattina il sole brilla sulle nostre teste, sulle nostre case, sulle nostre automobili, dappertutto, ecco che comincia un nuovo appuntamento. Buongiorno a tutti voi dalla voce di Mary Catalano, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento con Déjà Vu, il primo della settimana, anzi no, sì, il primo ma anche l'ultimo, visto che già oggi è giovedì, martedì era festa, spero abbiate passato delle belle feste, tranquille, in armonia con le vostre famiglie, i vostri amici. Ci ritroviamo qui oggi, naturalmente per ben due ore insieme, all'interno di questo appuntamento grande musica, grazie anche al vostro contributo, spero siate numerosi anche questa mattina. Contattateci ai nostri numerini, lo 0921 92 32 92, non dimenticate il numero per gli sms, il 335 56 37 251, e poi seguiteci anche in streaming al www.crmpiradio.it, nonché la nostra pagina Facebook, ok? Benissimo, abbiamo davvero tante belle cose da ascoltare, ci sarà forse anche qualche sorpresa, non lo so, speriamo proprio di sì. E andiamo avanti con il nostro appuntamento appena cominciato. Ragazzi, c'è una bellissima canzone nuova di David Guetta. Si pronuncia così, no? Vabbè, rettificate pure mandando sms al 335 56 37 251. Without you I can't win, I can't reign, I will never win this game. Without you, without you, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. can't accept that we were estranged without you. Without you. David Guetta insieme alla collaborazione straordinaria di Usher, una voce straordinaria anch'essa naturalmente, e la canzone che abbiamo sentito Without You, bellissimo singolo ultimo per chiudere gli occhi e sognare con la musica che la fa da padrona, che la fa da colonna sonora insomma. Allora, ancora buongiorno, ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto, a chi si è messo in sintonia soltanto da qualche momento, a tutti quelli che hanno voglia di stare tranquilli nonostante la giornata super lavorativa. Godete di questa bella giornata se potete. Salutiamo tutti quelli che in questo momento passeggiano, ma che ne so, sul lungomare di Cefalù magari, e in qualsiasi altro posto dove si può vedere il mare e il sole magari, e magari state anche sentendo la musica di CRM Happy Radio. Buongiornissimo a tutti, ci sentiamo fra breve, c'è la nostra CRM Happy Radio. Canto per te questa canzone per tormentarti ancora un po'. Tornare lì per un momento, con te che non puoi dire no. Canto per te questa canzone e so già quello che farai. Adesso fingerai di niente, ma dentro invece tremerai. No, non ti tradire con la gente, continua a fare quel che fai. Di noi. Volevo solo dirti ancora che non è passata mai, che tu mi senti come allora, anche se sappia almeno ancora che dentro non mi hai perso. No. Sempre sempre più raffinata Mina, che ritorna col nuovo singolo che stiamo ascoltando in sottofondo qui su CRM P Radio all'interno di Déjà Vu. Questa canzone si intitola proprio così, il nuovo singolo per Mina, e cercasi autore per quanto riguarda questo singolo. L'annuncio non arriva da uno dei sei personaggi di Pirandello, ma dallo staff di Mina. Il nuovo singolo intitolato appunto Questa canzone di cui parlavamo è infatti stato rilanciato sul web insieme ad un comunicato nel quale si raccontava di un mistero dietro la provenienza della canzone. La traccia sarebbe stata inviata alla cantante in forma del tutto anonima, quindi si chiedeva al fantomatico autore di contattare l'entourage della signora Mazzini per regolarizzare il tutto. Sicuramente una mossa efficace quanto a marketing. Il caso si è sgonfiato però quando si sono scoperti, tra virgolette, i veri artefici di questa canzone, ossia quei Mario Nobile e Paolo Limiti, che già in passato avevano scritto per questa regina della voce italiana, delle voci italiane. Secondo qualche fonte, la scrittura del brano si dovrebbe datare addirittura al 1971. Esaurito dunque l'inevitabile preambolo sul caso mediatico, non resta che dedicarsi all'ascolto di questo brano, chiamato ad anticipare il nuovo album per Mina, il prossimo album, che si intitola Piccolino, in uscita fra poco, praticamente fra poco meno di un mese. Questa canzone è un dolcissimo promemoria inviato alla persona amata e poi per qualche motivo perduta, un modo potenzialmente doloroso di far ricordare il proprio sentimento, ma al tempo stesso un impulso impossibile da trattenere. E sull'interpretazione di Mina sarebbe quasi blasfemo soffermarsi. Parliamo della voce generalmente indicata come una delle più splendide della scena musicale italiana, e non solo contemporanea e non solo nazionale, e il ritorno della tigre di Cremona è sempre cosa applaudita. Questo nuovo disco, che la vede troneggiare in copertina in versione aliena, conterrà, oltre al singolo in oggetto, altre 9 canzoni inedite scaturite da penne solidissime come quelle di Giuliano San Giorgi, Maurizio Fabrizio e Giorgio Faletti. Quindi un album pieno di belle canzoni nuove nuove, fresche fresche, per questa grande voce quale quella di Mina, che stamattina abbiamo sentito con questa canzone, il titolo del nuovo singolo per lei. Andiamo avanti col nostro appuntamento, arriva anche Eros Ramazzotti, quindi continuiamo sulla scia della musica italiana a sentire la musica che richiedete anche voi al 3355637251. Salutiamo Marilena che ci segnala Appunti e note, Eros Ramazzotti. Prendo appunti e note più o meno dolenti, spunti di ogni genere, dipende dai momenti. Briciole di vita che raccolgo ogni giorno, cose che per caso mi succedono intorno. Metto lì da parte ogni straccio d'emozione, che finisco poi per buttare in una canzone. Sempre questa folla di pensieri nella mente, fa rumoreggiando come pioggia battente. Sempre questo giro di musica e parole, che se parte bene poi arriva dritta al cuore. Prendo appunti e note, io lo faccio per mestiere, e mi piace molto come puoi vedere. Io sono sempre qua con questo spirito che ho, che cosa che spiegar non so. Io sono sempre qua che spingo il giorno un po' più in là, rubando cielo al tramonto, ci guadagnerò un bel po' di luce in più, in più. Chi lo sa cos'è che continuo a cercare dentro certi viaggi dalla terra alla luna, chi lo sa perché non mi posso mai fermare neanche dopo tanti atterraggi di fortuna. Forse perché in fondo ad ogni storia nuova manca quella frase che non ho scritta ancora. Io sono sempre qua con questo spirito che ho, pronta ad afferrarne un po'. Io sono sempre qua che spingo il giorno un po' più in là, rubando cielo al tramonto, ci guadagnerò un bel po'. il giorno un po' più in là, rubando cielo al tramonto, e se ho fatto bene il mio conto, ci guadagnerò un bel po' di luce in più, in più. Salutone a Marilena che ci ha segnalato a Rosa Mazzotti con Appunti e Note. Siete sempre su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano all'interno di Deja Vu, che vi accompagnerà sino a mezzogiorno con la musica richiesta anche da voi. E arriva anche Elisa all'interno di questo appuntamento con Love is Requested. So the day has finally come, with my past I've drawn the sum, and I'm glad I'm moving on. Yeah, I'm lost in unreturning time, let the winter chill my prime, but I'm done and moving. Looking back can help you through, but I wonder if that's true. I don't wanna have to take it. Or maybe sorrow is my gain, and I'm learning from the pain, but I'm ready to move on. 'Cause the moment's high, my tears abbiamo sentito questo bellissimo singolo. Fra l'altro tutti i singoli che riguardano questa artista sono bellissimi, dai, sono forse un po' di parte perché mi piace tanto, ma non credo proprio tanto alle parole che ho detto, perché comunque Elisa piace un po' a tutti quanti, io lo so. Comunque lei è stata per la prima volta sul red carpet del Festival Internazionale del Film di Roma, è stata l'interprete delle musiche del film Un giorno questo dolore ti sarà utile di Roberto Faenza. È stato il primo red carpet romano per Elisa, quello della sesta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. L'artista è stata infatti nella capitale per accompagnare il film di Roberto Faenza, come dicevamo prima, Un giorno questo dolore ti sarà utile, il titolo del film, presentato fuori concorso il 2 novembre scorso, di cui interpreta la title track Love is a Creed, quella canzone che abbiamo appena sentito, ispirata alle atmosfere del film. La canzone racconta della possibilità di ritrovare la felicità dopo un dolore e superare i momenti difficili per tornare a vivere un amore corrisposto. Interpretato da Elisa e scritto da Michele Von Buren, Love is a Creed è stato composto e arrangiato da Andrea Guerra, autore di tutta la colonna sonora del film. Benissimo, detto questo, possiamo dare spazio al prossimo singolo, un'altra canzone nuova richiesta al 3355637251 da Paolo, che ci segnala i Coldplay, che ultimamente sono sempre onnipresenti all'interno dei nostri appuntamenti, e soprattutto per quanto riguarda Deja Vu, che potete seguire, vi ricordo, anche in replica la notte alle 2 circa, alle 2 di notte, senza interruzioni. Pensate un po' che bello, tutta la musica che più vi piace senza alcuna interruzione pubblicitaria, di notte a partire dalle 2 con Deja Vu in replica su CRM Happy Radio. E dunque ci sentiamo, ci gustiamo questo singolo dei Coldplay, Paradise. Ancora buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, dovunque voi siate. Ricordatevi che se volete sentire la vostra musica preferita potete contattarci negli svariati modi che avete a vostra disposizione, compreso anche il nostro sito www.crmepiradio.it, e poi non dimenticate che c'è anche la pagina Facebook, potete scrivere anche lì tutto quello che vi pare, eh? Noi siamo qui pronti a leggere e a sentire la vostra presenza e soprattutto a farvi sentire la nostra. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Chief. nuovo singolo, questo che riguarda i Coldplay, si chiama Paradise e anticipa l'uscita del nuovo album. C'è all'interno del nuovo album, appunto, anche una canzone in collaborazione con Rihanna. E Chris Martin ha esagerato un po' ultimamente, dichiarando che la migliore al mondo come cantante è assolutamente lei, Rihanna. Dopo la partecipazione con lui, dopo che hanno collaborato in un singolo incluso nel nuovo album dei Coldplay, Chris Martin mi sa proprio che si sia innamorato di Rihanna e allora ha esagerato, osannandola più non posso, andando oltremodo le lusinghe. Insomma, lei sarà davvero appunto contenta di questa cosa, devo dire. E a proposito di Rihanna, fra poco la sentiamo con il nuovo singolo We Found Love. Intanto è arrivato il momento di dare spazio alla pubblicità. M Happy Radio. A CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu arriva il singolo che ascoltiamo ancora in sottofondo. Si chiama We Found Love, il nuovo singolo per Rihanna o Rihanna, insomma, comunque per quanto riguarda lei, pochi giorni fa c'erano sul web delle foto che la mostravano con la flebo nel braccio e la prognosi era influenza. A causa di questo malanno il concerto in Svezia è saltato e lei si è scusata con i fan, dispiaciuta per aver dovuto annullare la tappa. Ma il Sun smentisce la tesi portata avanti in questi giorni e parla di stress da iperattività. Qualcuno sul web era rimasto sorpreso da una simile foto per una semplice influenza e aveva espresso qualche dubbio. Adesso sembra avvalorata questo dubbio, questa tesi di una vita troppo sregolata dell'artista. Infatti Rihanna ha ancora 15 date fissate in Inghilterra prima dell'arrivo del Natale e sta promuovendo il nuovo album e registrando video. Proprio l'ultimo, We Found Love, mostrava la cantante in versione scandalosa mentre fumava, beveva e si comportava da bad girl. E una fonte assicura Rihanna è impegnatissima, ma non ha smesso di uscire a divertirsi, non ha mai un vero momento di riposo in cui rilassarsi. I dottori sono preoccupati perché non può reggere questo ritmo, in questo modo diventa vulnerabile e rischia di ammalarsi seriamente. Ed ecco, questo ha spiegato le foto, insomma, che ci sono state ultimamente sul web. Troppo tardi però per riposarsi, dato che hanno deciso di pubblicare il nuovo album e quindi anche nuovi singoli, nuovi video da girare, nuova promozione. Prima finiva il tour a gennaio, usciva We Found Love a marzo l'album, insomma, e invece no, tutto insieme, tour, singoli, video, album, tutto insieme, tutto in una volta, tutto adesso. E quindi Rihanna va in iperattenzione, in iperstress, e va bene, speriamo che si tranquillizzi un po', in modo che lavori con appunto più serenità e dunque senza problemi, senza malanni, senza acciacchi. Nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare la musica che anche voi ci segnalate. Questa volta arriva una bellissima canzone richiesta da Giovanni. Ti ringrazio Giovanni, perché questa è una canzone che piace anche a me, ti devo dire, un vecchio singolo ma sempre stupendo, e cantato dal grande Gino Paoli, Questa lunga storia d'amore. Grazie a te Giovanni, l'ascoltiamo, l'ascoltano anche i nostri radioascoltatori, che naturalmente spero usufruiranno anche loro del 3355637251 per segnalare le canzoni splendide di oggi e di ieri anche. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Déjà vu su CRM Happy Radio. Tornerai. Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Tornerai. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Tornerai, non sai. Ogni tanto cado e non ci sei. Tornerai, non sai. Che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Sfiorerai, ci stringeremo eternamente.

siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi, senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare. Siamo liberi, liberi di non ritornare. Noi siamo i soliti. Sì, noi siamo sempre i soliti, sì, specialmente se arrivano Jerry e Rosy. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Buongiorno ragazzi, che mamma bello mia. Trovarsi qua, mamma mia! Spieghiamo, perché sennò i cirremini nostri si confonderanno. Mi mancava questa cosa degli cirremini. Allora, sì, intanto me l'hai copiata anche spieghiamo, tu. Spiega. Vai, Rosy, ah, io devo spiegare. Cirremini cari nostri, niente, abbiamo avuto un piccolo cambiamento di programma. Stamattina siamo venuti a trovare la nostra capa. Vi ricordate i tempi la scorsa stagione invernale che venivamo al programma di Mary per apprendere? Ecco. Io penso che se lo ricordano, perché comunque facevamo abbastanza confusione. Esatto, devo dire. Esatto. Mi sa di sì, vero. E adesso oggi, dopo tanto tempo, siamo tornate a trovare la nostra amichetta. La sorpresa. Abbiamo portato anche la colazione. Vero, te lo ci sono scordato, come vecchi tempi. Esatto. Infatti, che mangiate di cornetti, eh? Ci volevano 3000 fazzolettini per togliere la Nutella da tutti i lati. E i mezzi denti, ne vogliamo parlare? Meglio di no. Comunque sono davvero contenta, anche perché adesso da un po' di tempo voi avete il vostro spazietto pomeridiano, sì, qui sì. Se c'era meglio vi ascolto, vi seguo, ed ero veramente molto malinconica ultimamente, dicevo ma peccato che non ci sono più i vecchi tempi, e invece poi riaffiorano le cose. Beh, vedi? Non si può mai dimenticare il passato, mia cara. Soprattutto quello positivo, quello, certo, esatto. Che vivi bene, che insomma, che no, ma se vuoi noi veniamo qua tutte le mattine, martedì e giovedì veniamo. Senti, qua. Non ti allargare, sennò va a finire che i CRMini nostri si confondono. Dico, ma sono déjà vu o toc toc, Rosy e Jerry? Ancora non c'è più. A tempo pieno, mattina, pomeriggio. No. Ci trasferiamo qua. A me farebbe solamente piacere. Facciamo le visite ogni tanto. Così come invitiamo anche Mary al nostro programma. Qualche volta spunto. Ci farei la sorpresa. Da voi. Perfetto, che va in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. Pubblicità. Perfetto, no, hai fatto bene, anche perché insomma bisogna ricordare questi appuntamenti, ma anche le repliche. Che qual è la vostra replica? La nostra replica è alle 10. Sì, ciao. Alle 5 e mezza del mattino. Ah, esatto. Praticamente senza interruzione, questa è la cosa positiva. Sì, la cosa anche, positiva, no? Senza pubblicità, una tirata. Infatti, come déjà vu, che va in onda alle 2 di notte. Alle 2 di notte. Senza interruzioni. Quindi, a proposito, appunto, ricordiamo questi appuntamenti con le repliche dei nostri programmi su CRM Happy Radio. Allora, CRMini. Sì. Tu sei quella che ieri mi accusava di averti rubato questo, certo, slogan. Sì, per carità, è suo, che nessuno è vero, tocchi. Che nessuno è vero. Lo tocchi. Ebbene, allora, visto che così, noi approfittiamo, faremo altre chiacchiere a microfoni chiusi, ci raccontiamo, certo, un po' sì, i fatti nostri più intimi, diciamo così. C'è una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo.

sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Déjà vu su CRM Happy Radio. Noi restiamo noi, lontani mai, con gli occhi in su verso le nuvole. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Noi dentro un addio c'è più che piangere. Meglio sperare o nascondersi tu. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Ci sono volte che non dormo ma vorrei poter sognare ancora, rubando al tempo un po' di tempo per rifarlo ora. Niente che io voglia che mi faccia paura di più di te. Nel bene e nel male rimane l'amore. Tu stringimi forte, tu stringimi ancora. Di più, di più. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Seconda volta e fallo per amore, ma fallo con amore. Se vuoi uccidimi per la seconda volta e fallo per amore. Sempre all'interno di Déjà Vu, sempre insieme a Mary Catalano con voi, sino a mezzogiorno, anche per questo giovedì del 3 di novembre. Continuiamo a sentire la musica. Arriva James Morrison con I Won't Let You Go, sempre segnalato al 335-56-37-251. Salutiamo Concetta che ce l'ha segnalato, ti ringraziamo. Continuate a interagire con noi anche tramite la nostra pagina Facebook, ma anche tramite il sito www.crmpiredio.it. Fra poco. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. If this love just feeling, if this life was seeing, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Say those words. You Go, il singolo per James Morrison. Salutiamo la nostra radioascoltatrice che ce l'ha segnalato, ovvero Concetta, grazie a te. Abbiamo ancora più di mezz'ora da trascorrere insieme all'insegna della musica che ci segnalate anche voi. Vi ricordo i nostri numerini, il 335-56-37-251. Non dimenticate anche l'appuntamento in replica con Déjà Vu alle 2 di notte, e potete seguire il programma senza nessuna interruzione. Tante canzoni, tutte insieme, senza interruzione, appunto, visto che appunto la replica è fatta la notte e non c'è pubblicità. Intanto torna Natalie Imbruglia. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. This is how I feel. I'm cold and I am shy. seen just what is there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Sono passati un bel po' di anni, devo dire, dall'uscita di questo singolo di Natalie Imbruglia. Era il primo singolo per lei che l'ha portata al grande successo, ovvero Torn. L'abbiamo cantato tantissimo e sentito davvero parecchie volte. Ogni tanto ci piace rimembrarla, la canzone, e riascoltarla all'interno dei nostri appuntamenti, in questo caso all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. Bene, è arrivato il momento adesso di sentire la prossima canzone. Lei si torna alla musica di oggi, quella nuova, e questa volta quella di Laura Pausini, che sentiamo con Benvenuto. Ancora ben trovate a tutti voi che siete all'ascolto, a quelli che si sono messi in sintonia soltanto da qualche minuto. Buongiorno a tutti, siete insieme a CRM Happy Radio. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che Ma Happy Radio. Certo che quando si è ad alti livelli, soprattutto dopo una carriera piuttosto lunga, è difficile ripetersi costantemente con album e singoli di successo di buona qualità. Invece Lenny Kravitz è uno di quelli che ci riesce, ha dimostrato di riuscirci alla grande anche con il nuovo album che si chiama Black and White America, il nono album del cantautore americano, un lavoro che rispetto al precedente It Is Time for a Love Revolution è meno rocchettaro, però insomma è sempre molto trascinante. E abbiamo sentito Stand, la hit estiva, grazie alla segnalazione di un nostro radioascoltatore Marco, che salutiamo. E c'è da dire che comunque c'è in circolazione già il nuovo singolo che si chiama Push, il quarto estratto dal Black and White America, una sorta di ballata guidata dal piano e supportata da strumenti come l'organo e i fiati utilizzati per dare solarità al brano. Insomma, una canzone diciamo un po' più lenta rispetto al singolo che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, però comunque molto molto trascinante e altrettanto trascinante rispetto alla canzone appunto che stiamo sentendo. Benissimo, Lenny Kravitz dunque, grazie alle vostre segnalazioni. Mancano circa 20 minuti alla fine del nostro appuntamento, c'è comunque ancora un bel po' di musica da ascoltare e arriva la musica italiana di Gianna Nannini, anche lei non può mancare all'interno del nostro appuntamento, e sempre grazie alla nostra Patrizia che secondo me è molto molto legata a questa questa artista Gianna Nannini, appunto, perché comunque le sue segnalazioni spesso rispecchiano le canzoni proprio di questa artista Gianna Nannini, e la canzone va tutta a Jerry. Vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io vivrò e nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere. Ti voglio tanto bene e niente finirà, se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io canterò per te, canterò per te. Ricordati il mio nome, ti voglio tanto bene. Per la gioia di tutti i grandi fans di questa grande artista che è appunto Gianna Nannini, ringraziamo Patrizia che ci ha segnalato Ti voglio tanto bene, che dedicava alla nostra Jerry che è qui con noi questa mattina. Sì, buongiorno ancora, volevo ringraziare Patrizia, come sempre molto gentile, grazie Patti. Ha visto quanto ti vuole bene? Sì, mi vuole tanto bene, ci segue sempre lei, sempre sì, sempre, sì, tutti i pomeriggi. Sì. Siamo proprio pomeriggio ma anche di mattina. La vedo molto molto presente all'interno dei miei programmi. E a proposito di pomeriggio, scusa Mary se ti interrompo, volevo ricordare ai nostri cari amici radioascoltatori che Toc Toc da lunedì prossimo si andrà in onda non dalle 17 alle 19 ma dalle 15 alle 17, quindi cambio... c'è stato un cambio d'orario. Perfetto, comunque ci siete, questa è la cosa più importante. Ci siamo. E praticamente dalle 15 alle 17 dopo 17, ci sarà Roby D'Antoni con On The Road. Perfetto, sicuramente non perderete i vostri radioascoltatori per la vostra simpatia, questo è poco ma sicuro, vi ascolteranno. Speriamo. Anche alle 15 del pomeriggio. Benissimo, siamo pronti per dare spazio alla prossima canzone. Arriva Giusy Ferreri, vi ricordate di questo singolo? Sì, bello. Proprio bello. Bello. Lo riproponiamo questa mattina all'interno di Déjà Vu. Ancora buongiorno e bentrovati. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali, per intuire tutti i sensi unici. A volte o quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente mi appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che ti ci portava verso il mare. Quel mare immenso. Adesso non mi pento più e rimango qui da sola. Dipingo la memoria alle pareti. Lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso. Non respiravo venti più leggeri. È scivolato tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi brucia l'anima. L'amore che distrugge come un cielo a fulmine. Il nostro cuore fuori legge spara colpi di dolore. È troppo tempo che non si fa più l'amore. Non scorre il sangue dentro al fiume che ci porta. Il mare immenso. Vi siete fatti anche voi una bella cantatina? Beh, io di sicuro, anzi noi di sicuro. Perché anche se magari non le sentite, sono sempre qua, le mie belle amichette, le mie due belle CRMine, ovvero Rosy e Jerry. Un bellissimo successo dei Guns Roses vi aspetta adesso, sta per arrivare nelle vostre orecchie, Since I Don't Have You, bellissimo singolo per i Guns Roses, sempre su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano. Vi ricordo che fra poco comincerà anche l'appuntamento con Filippo Glorioso e dunque con carta e penna, Diciamolo, va, io come ministro degli interni della difesa, diciamolo che queste cose si fanno. Ma certo che si fanno, ministro, è giusto che si facciano, e come no. Allora, sentiamoci questo singolo, come dicevamo prima, Since I Don't Have You, Guns Roses, CRM Happy Radio, Deja Vu. Desire. Happy Radio. Per concludersi questo appuntamento, se ne va via pure il sole, ogni volta è così, lo so, succede sempre così, va via il sole quando vado via anch'io. Sì, tu sei il sole che illumina CRM e tutti gli CRMini. CRMini che fanno? Si illuminano di mezzo, grazie a Mary, ma anche grazie a Rosy e Jerry, direi. Sì, dai, per forza, vabbè. Oggi per forza. Oggi ci siamo anche noi a tenervi compagnia. Sì, ci sono anche loro perché ormai mi hanno abbandonato, lo sapete già, perché hanno il loro spazietto tutto per noi. Tutto per voi. Tutto per noi, che va. Domani saremo in diretta. Domani venerdì dalle 17 alle 19, l'ultimo appuntamento pomeridiano che partirà dalle 17, perché abbiamo avuto fresca di giornata la notizia che da lunedì cominceremo alle 15, dalle 15 alle 17. Quindi non dimenticate questo particolare. Ricordatevelo, perché sennò non potrete ascoltarci. Vi aspettiamo. Benissimo, siamo, come dicevamo prima, in conclusione di questo appuntamento, l'ultimo anche per quanto mi riguarda, l'ultimo appuntamento della settimana. Era ora. Non cambia mai, guarda, è rimasta tale e quale come l'hai lasciata. Ma era una battuta, perché come potrei sputare nel piatto dove ho mangiato? Oh mamma mia, scusami. Mi sono rifatta. Sì, ormai io ci ho fatto il callo con lei tutti i pomeriggi, è un piacere. Ma ti diverti tantissimo. Ecco, l'importante è quello, ragazze. Va bene, io mi auguro che anche qualche altro giorno, qualche altra mattina veniate a trovarmi, perché davvero mi diverto. Siete troppo forti, ragazze. Io vi stimo, scherzi. Promessa, noi verremo a trovarti solo se tu verrai anche al nostro programma. Organizzati. Sì, questa l'ho già messa in conto, non so quando. Io non ci volevo venire. Ma ogni perché volta. Perché non ci stava a casa se non ci voleva venire? L'intruso, c'è l'intruso. Il famoso intruso, sì. Questo perché fa ancora caldo, teniamo ancora le porte aperte, qua entra chiunque, mi sa che non va bene. C'è da dire anche il discorso che CRM è una radio aperta a tutti. Ecco, questa è la Noi la siamo prima molto cosa. Disponibili e accoglienti. E quindi possono capitare anche gli imprevisti. Quindi ci sono i pro e i contro di questa bontà che noi abbiamo. Va bene. Salutiamo anche perché c'è carta e penna fra poco con Filippo Glorioso, quindi dobbiamo dare subito spazio a questo altro appuntamento. Ci sta minacciando in questo momento, preciso momento, sì, proprio ecco qua. Corriamo dei grossi rischi. E allora scappiamo via, ci ritroviamo la prossima settimana qui con Deja Vu e Mary Catalano, mentre con Rosa e Jerry domani dalle 17 alle 19. Ultimo appuntamento dalle 17 alle 19. Esatto. Un bacione a tutti, ciao! Ciao! Alla prossima!